Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Ti ricordi che Padova si chiama? Le tasse sono bellissime. Gino, sei d'accordo o no? Ci ripeti questa frase che dice Padova schioppa? Hai sentito bellissimo? Vaffanculo. Vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Sì, il tempo è sì, oggi iniziamo con Gino Paoli perché succede una cosa, cari italiani, alla quale non volevo credere. Una cosa alla quale non volevo credere, beh sì, questo era il Gino Paoli che, approcciato dalle Iene, disse: le tasse vaffanculo. Cioè non le tasse vaffanculo, vaffanculo a quello che gli chiedeva delle tasse. E ti lasci cadere. Siamo un paese bizzarro, siamo un paese un po' strano, a volte anche un paese cialtrone, diciamo la verità. Repubblica, l'ho dovuta rileggere insieme ad Alessandro Longoni, che è qui in redazione, sbrandato alle 5:30, cinque volte, perché non volevo crederci. Gino Paoli in cattedra. In cattedra, è stato chiamato a partecipare a un master sulla innovazione nella pubblica amministrazione per parlare di tasse. Ma come? Ma com'è possibile? Gino Paoli a parlare di tasse, che per carità non avrà fatto nulla, sapete che c'è l'indagine sui soldi in Svizzera, sarà sicuramente innocente, fino a prova contraria. Ma Gino Paoli a parlare di tasse e a sparlare di tasse. Le tasse sono figlie delle gabelle di Conti e Marchesi. Gli americani hanno un altro approccio, mentre noi siamo il paese dei commercialisti, perché nessuno ci capisce niente. E se fosse tutto più semplice, potrebbero occuparsi dei cittadini. Manca invece il buon senso. Ed è stato accolto a questo master con sapore di sale. E mentre ti bacio, sapore di sale. Il rettore dell'Università di Genova, intervenuto anche lui, Paolo Comanducci, gelido: non sapevo nulla dell'invito, mi sembra un'iniziativa inopportuna. Ah sì, inopportuna, effettivamente mi sembra l'aggettivo più inopportuna, Gino Paoli che parla di tasse. Siamo un paese così. Sono le 6:33 minuti, questo è 24 mattino. Oggi c'è un grandissimo ritorno al Parlamento di 24 mattino, insieme a Alessandro Longoni, che ho già salutato, a Peter Bescapè in regia. Apriamo subito il Parlamento, perché il Parlamento oggi si riapre con un uomo. Adesso vado a prendere un caffè, quindi che sarà sempre libero di dire tutto ciò che gli passa per la mente qui, solo qui, al Parlamento di 24 mattina, il nostro Albertone Forchielli. Alberto. Ciao Lino, ciao. Come va? Bene, bene, bene. Sto aspettando. Stai aspettando che? La tua telefonata. Ma dove ti trovi? Sì, sono a Hong Kong. A Hong Kong. Un uomo libero, lo voglio ribadire, di dire quello che ti pare, lo sai qui, Sì, grazie, lo so. Lo sai. Grazie a te. No, vabbè, grazie a te. No. Allora, c'ho questa bronchitaccia, Bertone. Come va? Ma bene, sai, qui la situazione è serena. È serena. L'economia non scoppia, però va. La gente non ha grandi preoccupazioni. Vabbè. E invece sai qua cosa succede? Qua abbiamo un senatore Azzollini del quale chiedono l'arresto. Avrebbe detto tra le altre cose anche a delle suore vi piscio in bocca, anche se lui smentisce totalmente questa cosa. Ti faccio sentire Azzollini, non so, da Molfetta, senti Azzollini. Questa frase che esce dai verbali, i testimoni che riferiscono. Smentisco categoricamente, l'ho già fatto più volte. Ma lei come mai allora due testimoni? Mai detta. Sì. Senatore, un'ultima cosa. Smentisco categoricamente, mai ho pronunciato una simile frase. Senatore, un'ultima cosa, politica. Non l'ho mai pensata nemmeno. Non commento alcunché. Vabbè, non commento. Ho solo smentito. È un cattolico fervente, quindi non avremmo. Poi vabbè, poi c'è Mafia Capitale. Insomma, come lo vede il governo da lì, da Hong Kong? Oh, beh, Renzi deve stare attento perché è sulla schiena del burattello, come dicono i romani. Cosa vuol dire la schiena? Scusa, cos'è il burattello? È l'anguilla appena nata, sai, la regionali non è gregge. Nonostante la formazione del centrodestra, il senso nel partito, riforma scolastica se la deve rimangiare, riforma del Senato in forse, Grillo e Lega in crescita. Oh, è vero che l'Italia è un paese difficilmente gestibile, perché da un lato c'hai i politici che sono una banda bassotti, il popolo che è fatto da commissari tecnici, Renzi in mezzo con le sue ricette, che sia nuovo per partecipare alla prova del cuoco, perché Masterchef è stato scartato, quindi la situazione è un po' complicata, un po' complicata. Cos'è questo? A Masterchef partecipa? Sì, è stato scartato. È stato scartato. Non ha le ricette convincenti. Ah, non ha le ricette convincenti. Poi sai, abbiamo una lista degli impresentabili che ormai è più corposa della Treccani. Dell'enciclopedia. Come vuoi che la veda l'Italia, andiamo su così. Insomma, messa un pochino così, com'è sulla schiena del dov'è, com'è? Burattello, l'anguilla appena nata. Poi fanno il fritto misto, capito? È un classico ingrediente del fritto misto, solo per dire uno che fa fatica a stare in sella. Fa fatica a stare in sella. Ma insomma, però, tutti i giornali, guardate qua il titolo del Corriere della Sera. Oggi, ogni tanto trovi questi titoli sul Corriere della Sera che mi fanno un po'. Il gabinetto di guerra di Renzi. Cercano di colpirci, resistiamo. E che è? Cioè, Schwarzkopf con Bush all'epoca della guerra in Iraq. Non lo so. Il gabinetto di guerra di Renzi. No, beh, di Schwarzkopf gli avevano dato la mimetica quando è andato in Afghanistan, in Iraq, in Afghanistan. Sì, era quella di Schwarzkopf, quella lì. Ma com'era quella di Schwarzkopf? L'unico elemento. Ah, beh, c'aveva la mimetica che era 7 volte la sua misura. Ah, per la misura, perché ormai è un po' ingrassato, lo vedi? Sì, beh, sì, un po' deve fare, ossia deve recitare la parte dell'uomo solo contro il sistema, che in parte è anche così. Sì, sì. Perché fare dei cambi in Italia è difficilissimo. È difficilissimo. No, ma prima, adesso ti chiedo un attimo del tuo approccio su Mafia Capitale, anche perché ci sono tante cose da dire. Però giustamente un ascoltatore, ma anch'io avevo in mente di chiederti subito la vicenda di Mr. B, perché sapete che Forchielli è stato colui che ci ha lanciato l'idea di Mr. B, da soprannominato da lui Mr. Bean. Hai visto che Mr. Bean fa sul serio, se lo compra davvero il Milan, altro che, o meglio, il 48% guarda, del Milan pare. Guarda, da Bangkok ti dissi a febbraio, ero a Bangkok, che Mr. Bean non aveva i soldi e che aveva l'appoggio probabile di fondi cinesi. Ti confermo, una, che l'offerta di Bean è l'unica offerta seria che il Bean non abbia ricevuto, in mezzo a tutte le altre pagliacciate cinesi. Non si è firmato un contratto, ma si è firmato un'esclusiva. Sì. I soldi non ci sono ancora, e comunque non sarebbero i suoi. C'è una raccolta in corso per mettere insieme questi 480 milioni di euro, perché veramente sono 480 milioni di euro. Mm-hmm. E parte di questi soldi potrebbero essere cinesi. Ci sono dei cinesi. Cinesi, soldi cinesi. C'è un crowdfunding in Cina, insomma. Sì, sì, c'è un fundraising in Cina. L'idea di fondo di Bean è quella di fare un dual listing, di portare il Milan in borsa sia a Hong Kong che a Milano. Sì. L'idea è ardita, ma non è priva di senso, perché il Milan comunque è un marchio in caratura mondiale. Rispetto, stai parlando del Milan. Sì, no. Bunga, devo dire, Berlusconi. Bunga, come lo chiama? Perché è lì Bunga. Ma Berlusconi. Sì. Si è imposto perché glielo volevano proprio vendere tutto e lì lui si è imputato. Si è tenuto la maggioranza almeno. Sì, lì però è l'unico giocattolo che gli è rimasto, quello l'ha voluto mollare. E dal punto di vista dei compratori sembra che la gestione Galliani lasci grandi speranze di miglioramento. Quindi, qui sospiro su Galliani, sospiro. Sì, quindi l'anno prossimo, capito? Io magari arriviamo sesti. No, il paradosso è che l'anno prossimo, vivendo a Bangkok, perché mi trasferisco a Bangkok, ti vedo da Bangkok Milan-Bologna, sì. In cui potrebbe anche essere che il Bologna ha una compagine sociale più forte e seria di quella del Milan. Ah, bene. Questa è la mia rivincita. Molto bene. Magari incrocio anche Mr. B in un qualche ristorante, so. No, sarà meglio che non incroci io, se no quello mi fa espellere dal paese. Ti fa espellere dalla Thailandia. Vabbè, allora, caro Albertone, ti faccio sentire Orfini. Lo conosci? Sai chi è Orfini? Il presidente del PD. Vedi che anche lì dall'Asia, dal profondo sud-est asiatico, sei molto attento. È anche il commissario del PD a Roma, dove c'è un disastro. Sentite sulle ipotesi di dimissioni di Marino, il sindaco. Dimissioni, ma assolutamente no, è un'ipotesi che non esiste, non è mai esistita, cioè noi abbiamo il dovere di continuare a governare questa città per sconfiggere la criminalità e far funzionare ancora meglio questa città, questo è quello che ci hanno chiesto i cittadini, per cui abbiamo preso i voti e quindi questo faremo e stiamo facendo. Dimissioni assolutamente no, ma come la vedi Mafia Capitale da lì? Ma sai, Roma, anche vista da fuori, no? È in un degrado tale che per gestirla, altro che Marino, ci vogliono i Marines. I Marines, più che Marino. Sì, quando parlo con gente che c'è stata, io stesso vengo ma volentieri, ci vado una volta di 3-4 anni. Salutiamo tutti gli amici di Roma, ovviamente, che ti stanno ascoltando, ma con affetto. In comune a Roma ormai decidono gli uscieri, perché della giunta non è rimasto nessuno. No, dai, adesso non esagerare. Sono lì, la giunta. Però lì, sai cosa hanno fatto lì, secondo me? Hanno in realtà cambiato le figurine del presepio. Al posto della mangiatoia per il bue e l'asinello, hanno messo le onlus di Mafia Capitale. Come re magi, hanno messo busti carminati e comunioni fatturazione. Comunione e fatturazione, mamma mia. E Marino al posto del bambino. Però tutto sommato hanno riassettato presepe. Sì, in modo un po' diverso. No, tra l'altro c'è quest'altro titolo, oggi sono fissato con i titoli, dall'interrogatorio di Luca Odeven, che è uno degli arrestati, ex funzionario del comune. Luca Odeven a un certo punto dice, senti bene Alberto, il magistrato gli dice perché Salvatore Buzzi le dava 5.000 euro al mese e Odeven risponde perché così facevo il facilitatore dei rapporti con la pubblica amministrazione. E il magistrato si ferma e dice scusi, che lavoro è il facilitatore dei rapporti con la pubblica amministrazione? Sa, ogni tanto qualche pratica di qui. Il facilitatore, a noi ha ricordato facilitator, ormai si danno anche un tono da city, capito? Esatto. Che lavoro fa il facilitatore? No, esiste il facilitator in public administration interaction. Sì, ho capito, esiste, ma ruoli nei paesi anglosassoni, quindi si dà anche un tono da manca poco e si mette la bombetta. No, vabbè, so. A noi è venuta in mente la mitica frase di Kill Bill, eh? Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Di Pulp Fiction, certo. Pulp Fiction, non Kill Bill. Giustamente, subito Longoni mi riprende Pulp Fiction con un tono, come dire, coglione, non ne sai neanche mezza. Vabbè, insomma, è Pulp Fiction, effettivamente, non Kill Bill. E il facilitatore, capito? Faceva il facilitatore. Il facilitator. Il facilitator. Vabbè, è così. Vabbè. Posso fare un albo dei facilitator. L'albo. Abbiamo tutti in un albo. Esatto, eh? L'albo dei facilitatori con la pubblica amministrazione. Se vi beccano in qualche modo. È l'authority. L'authority dei facilitatori per il controllo dei facilitatori della pubblica amministrazione. Si potrebbe fare. Allora, caro Alberto, devo andare a dare le informazioni sul traffico. Poi stiamo con Alberto Forchielli. Di che vuoi parlarci? Della Grecia? Dei migranti? Avrai un approccio su. Mamma mia, sono. Sì. Temo già, tra poco. Sì. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti, grazie. 24 mattino. Buongiorno signor Milan, volevo augurare una gran diarrea, per non dire caghetta, a colui che ha inventato la TASI. Pagare tasse sulla casa costruita o comprata con sacrifici è una vergogna. Se il 40% degli italiani non ha votato, perché il 40% dei deputati e senatori non vanno a casa senza vitalizio? L'indagine che riguarda il senatore Antonio Azzolini sulla casa della parcella della Divina Provvidenza, un caso che mette assieme suore, sodomia, funzioni corporali. Che spettacolo. Ma che giornalista sei in ogni cosa che fai, la notizia è notizia insieme a te, e io brindo la tua lettura dei giornali ogni mattina. Alino Milan, il gusto pieno della notizia. Ragazzi, ormai. Beh, ma spettacolo, però è spettacolo. Albertone Forchielli, siamo qui con te. Hai sentito quello che augurava a chi ha inventato la TASI? Mica male. No, quell'idea lì del 40% che si tolgono non è male, della farla tara, quelli che non votano. Quelli male. 40% non vota, 40% a casa. Mica stupido. Allora, di cosa ci vuoi raccontare cosa succede sulla Grecia in maniera molto semplice? Perché il Fondo Monetario se ne sono andati via dagli accordi, ma non ci hanno un po' smarronato questo balletto sulla Grecia? Ah beh, il tiramolo della trattativa sulla Grecia è ancora più noioso delle note della danza di Zorba, se non sai. Sì, quelle le famose. Sì. Manca solo che la gara si metta a ballare i sitacchi. Però, io non credo che salti. Non credi che salti? Ma il tuo amico Varoufakis, anzi, come lo chiami tu? Scarciofakis. E non salta. Questo lo sempre. Arriverei sul precipizio, però troveranno un modo per allungare il brodo e posticipare di altri 6 mesi, qualcosa del genere. Perché i tedeschi vedono il problema da un punto di vista finanziario. Sì. Noi italiani ci dividiamo, però c'è una certa preoccupazione. Sì, anche una sofferenza condivisa con i greci, perché diciamo che un giorno potremmo finire come loro. Gli americani invece vedono il problema Grecia giustamente come un'enorme catastrofe geopolitica, e la pressione americana sulla Merkel è molto forte. E difatti la Merkel sta dissociando da Schaub, il ministro delle finanze, Schauble, e con Falco. E se noti c'è anche questo appiattimento della Merkel sul problema Russia rispetto agli USA. La mia idea è che alla fine la Germania intervenga, si trovi un modo per un accordo, si farà un default conclamato, perché la Merkel, ricordi, c'hanno obiettivi in testa. Vuole andare a fare il segretario dell'ONU. Ah! la Merkel, la Merkel, segretario generale dell'ONU, punta a questo. Vabbè. Vedremo, quella profezia di Forchieri. Primizie ti do a Barlavento. Primizie. Adesso vedremo se hai visto nella sfera di cristallo, se la Merkel andrà lì. No, invece, non so se hai visto le foto. Qui le stazioni delle grandi città italiane, Milano, Roma, sono ormai un bivacco di migranti, di poveri cristi che non sanno dove andare, vengono sbattuti lì. C'è una gestione veramente da paese del terzo mondo, questo sì, il nostro. Guarda, il problema non esisterebbe se gli Stati Uniti e la Russia andassero d'accordo, perché in due minuti gli Stati Uniti e la Russia potrebbero chiudere la Libia, chiamare le fazioni, le parti in causa e chiudere la Libia. Finché ci rimane aperto quel problema della Libia, Russia, noi balleremo sempre, Medio Oriente, Libia e con l'ISIS. E cosa facciamo? Facciamo una guerra alla Russia, dichiariamo guerra alla Russia. Bisogna riportare l'amministrazione americana a un atteggiamento più conciliante. Cioè, capisco Putin, ma non è che Putin possa cambiare il paese. Lo vedi quello che è, bisogna riportare l'amministrazione americana un rapporto più equilibrato con i russi. Vabbè, lo vedi un po' troppo falco Obama nei confronti dei russi? Sì, ma è tutta una storia che ha a che fare con l'opinione pubblica, è stato demonizzato. Tutti i film, se noti, il cattivo ormai in tutti i film americani è sempre russo, sì. Non è più cinese, perché lo devono vendere in Cina, per cui non possono più fare il cattivo cinese. Quindi è nordcoreano e russo, per cui c'è tutta questa l'opinione pubblica che monta, ma in realtà non c'è nessun elemento di conflitto strategico con la Russia, per cui si potrebbe facilmente trovare un accordo. Io credo che sostanzialmente gli americani si siano un po' troppo allargati, noi come NATO ci siamo un po' troppo allargati dopo il 91, dopo l'accordo con Gorbaciov, cioè non formalizzato. Vabbè, insomma, vedete qua, diamo anche lezioni di geopolitica con il nostro Alberto Forchieri. Vabbè, Albertone, qua io ho un minuto, non lo so, ci vuoi regalare un saluto dai tuoi? Che fai? Ma che fai a vivere a Bangkok adesso? Andrai a vivere a Bangkok? Sì, perché mi voglio occupare più di sud-est asiatico. Però non voglio vivere a Singapore perché Che noia, sono noioso, allora noioso, sì. Bangkok, ma ho aperto a Singapore. Noioso Singapore. Ma sai, no, la tragedia che mi ha devastato è che hanno rubato il corno del rinoceronte balsamato dal 1840 al Museo di Zoologia di Bologna. Ah sì? Io lo sapevo che prima o poi qualche vecchio cinese con difficoltà di erezione ne avrebbe commissionato il furto. No, basta. Io devo dire basta, se di arresto ormai scompaiono le tigri, scompaiono i rinoceronti. Hanno rubato il corno imbalsamato. Ma in tutti i musei ormai, capito, vanno a rubare i corni, pagano 100.000 euro. No, è che non ci sono neanche più quelli vivi, capito? No, infatti, anche quelli imbalsamati per problemi di erezione. Va bene, fermiamoci qui. Albertone, grazie. Quando vuoi, noi siamo qui. E ti saluto, un grande abbraccio dall'Italia, ovviamente. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Poi oggi parleremo di migranti, di immigrazione, di queste città, Milano, Roma soprattutto, queste immagini che girano anche sulle TV. E che vengono immortalate dai giornali di stazioni cittadine che vengono trasformate veramente in bivacchi per una situazione che effettivamente è difficile da gestire. Allora, parleremo di questo, avremo tanti ospiti, però cominciamo come di consueto con la lettura dei quotidiani. È venerdì 12 giugno, è venerdì, Peter Vescapè, eh? Sei contento, eh? E non è neanche venerdì 13, è venerdì 12. Allora, i titoli: Il Sole 24 Ore apre sulle novità sul Jobs Act, lavoro, mansioni più flessibili, stretta soft sui collaboratori, questo è il titolo di prima pagina, così anche per il Corriere della Sera, il nuovo Jobs Act, congedi più ampi per i genitori. Mentre Repubblica ha una notizia: Roma, blitz del governo, giubileo commissariato, il decreto è pronto e serve a esautorare Marino, il sindaco, e mettere invece il prefetto Gabrielli a controllare il giubileo. Sulla vicenda Roma Capitale, il sindaco Marino parla al Messaggero: Roma soffre ma così ripartirà, è il forum che il sindaco ha fatto nel quotidiano Il Messaggero. 12 motivi per cacciare Marino, questo invece è il titolo di Libero. La Stampa, quote volontarie, l'Unione Europea volta le spalle all'Italia sui migranti. Ah, la solidale Europa. Il Fatto Quotidiano invece apre su il governo dei ricatti, effetto scandali, Renzi nelle mani di Alfano che minaccia lui e il sindaco di Roma, questo è il titolo di prima pagina. E Alfano tradisce anche i suoi, è l'apertura invece del Giornale. La maggioranza a pezzi, così sancisce il quotidiano del direttore Sallusti. L'apertura del Manifesto è dedicata proprio alla situazione dei migranti, una foto dalla stazione, in questo caso la stazione di Milano, scalo merci, questo è il titolo, molto brutale, con queste persone tutte ammassate, non dico l'uno sopra l'altro, ma più o meno, poco ci manca. Voglio partire però da alcune notizie, come quella che pubblica il Fatto Quotidiano a pagina 4, la notizia di Carlo Tecce, e riguarda la RAI, perché c'è un'anticipazione sul fatto: Renzi avrebbe deciso con chi sostituire Luigi Gubitosi, il direttore generale della RAI, che è in uscita. RAI renziana, Bernabé e De Siervo, e Gubitosi licenzia l'ex direttore generale Lei. Allora, per mettere ordine, scrive Carlo Tecce, c'è la RAI, quella solita poltiglia che fomenta la politica e spaventa Renzi, il fiorentino l'ha infilata, Palazzo Madama, Commissione Trasporti, dove langue un disegno di legge, Renzi simula distacco, allunga le scadenze, ma già ragiona sui nomi, interpella consulenti, collaboratori, interpella Marco Carrai per i nomi, il più ricorrente dei nomi è proprio questo, Franco Bernabé, banchiere, boiardo di Stato, dirigente privato, ultima fermata Telecom, per garantire su Bernabé non occorre Carrai, ma la buona parola è sempre gradita. E poi c'è la riforma, dunque Franco Bernabé sarebbe messo ai vertici della RAI, questo giura il Fatto Quotidiano, insieme a lui Luigi De Siervo, il papà ex presidente della Consulta, lui Luigi De Siervo, nato a Firenze, antica frequentazione con Matteo Renzi. De Siervo fa l'amministratore delegato di RaiCom e presiede ADIRAI, cioè l'influente associazione dei dirigenti della RAI. Questi sono i nomi, la coppia, secondo il Fatto Quotidiano, che Renzi avrebbe individuato per governare in RAI dopo Gubitosi. Staremo a vedere. L'abbiamo sentito nel giornale radio, una notizia che è davvero sconvolgente, di cronaca, proviene da Milano, è avvenuto ieri sera, quindi i giornali non hanno ancora molte notizie al riguardo, ci sono solo degli articoli mezze pagina, un quarto di pagina, ma credo che domani sarà approfondita. Ferito con il macete, controllore perde il braccio. Succede a Milano, Italia. Pagina 21 del Corriere. Avete i biglietti? Raccontano Andrea Galli e Cesare Giuzzi nella cronaca. Avete i biglietti? È iniziata così, con la domanda più semplice. Il controllore sul treno S14 delle Ferrovie Nord che proveniva da Expo verso Milano e un gruppetto di ragazzi sudamericani, 4 o 5 secondo le prime testimonianze. Il biglietto non ce l'avevano, hanno alzato la voce. Il controllore ha fatto solo il suo lavoro, a quel punto uno dei ragazzi ha tirato fuori un macete dallo zaino. L'aggressione è stata violentissima, si è avvicinato un altro controllore fuori servizio per aiutare il collega, erano le 21:50 di ieri alla fermata di Villa Pizzone, periferia nord-ovest di Milano. Dopo che i ragazzi sudamericani sono scappati, le ambulanze hanno portato i due ferrovieri in pronto soccorso. Quello arrivato dopo, non in servizio, 31 anni, ha un forte trauma cranico, ma il primo controllore, 37 anni, è stato colpito col machete in modo furioso e i chirurghi non sono riusciti a salvargli il braccio. Alla fine poi le ricerche hanno dato frutti, sono stati inseguiti e bloccati alcuni di questi aggressori. Uno dei due è stato trovato con del sangue addosso, l'altro corrisponderebbe alle descrizioni fornite all'investigatore da alcuni testimoni. Ovviamente nella notte altre verifiche, questo non è scritto sui giornali, lo leggeremo domani, ma mi sembra una roba davvero sconvolgente. L'aggressione a questo controllore col machete ha perso il braccio. Parliamo di un'altra aggressione. Non so se ricordate l'anno scorso tutta la polemica per l'orso del Trentino. Mi sa che ci risiamo, cari ascoltatori. Aggredito da un orso, succede ancora a Trento, come racconta La Stampa con Maurizio Di Gian Giacomo a pagina 21. Pensavo mi uccidesse, ora devono fermarlo. Succede a Vladimir Molinari, podista, che stava a 15 km da Trento, anzi a nemmeno 10 km, stava correndo ed è stato aggredito da un orso ed è stato ferito molto gravemente. Pensavo mi uccidesse, ferito a un braccio, al tronco, privo di due denti, con il cuoio capelluto aperto da un morso. Insomma, una situazione difficile, tanto che il presidente della provincia autonoma, Ugo Rossi, provincia di Trento, ha firmato un'ordinanza che prevede la cattura e la messa in cattività, o nella peggiore delle ipotesi, l'abbattimento dell'animale. Ricordate le polemiche dell'anno scorso sull'orso, chi stava con l'orso, chi non, come si chiamava? Danizza, credo, l'orso Danizza. Chi stava con l'orso, chi stava contro l'orso, chi era per l'orso, chi invece no. Mi sa che ci risiamo, si riaccende lo scontro sugli animali, staremo a vedere, ma temo che ci attenda un'altra estate di passione tra orsiani e non orsiani. Allora, ma siamo all'articolo che ci fa tenere le mani strettissime sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. E guardate che questo è un paese molto strano, molto strano, l'abbiamo già raccontato alle 6:30, molto strano. Solo due gli articoli, per la verità, uno su Repubblica, uno sul Secolo XIX. Dai, diamo questo di Repubblica, pagina 22, Erika Manna. Succede che in Italia, a Genova, c'è un signore che è accusato di evasione fiscale per aver portato i soldi in Svizzera, e vedremo cosa riuscirà a dire la sua discolpa. È abbastanza famoso questo signore, è Gino Paoli, lo sapete tutti. Ebbene, sapete Gino Paoli che cosa ha fatto ieri? È intervenuto in un master in innovazione della pubblica amministrazione, cioè quindi in un master per parlare a, immagino, giovani o non meno giovani che vogliono lavorare nella pubblica amministrazione, per parlare di tasse. Gino Paoli, di tasse. Gino Paoli in cattedra, titola Repubblica, le tasse sono gabelle. E ovviamente, più che parlare, sparlare di tasse. Le tasse sono figlie di Conti e Marchesi, delle gabelle, mentre gli americani avevano tutt'altro approccio, raccoglievano soldi per costruire scuole e opere pubbliche. L'Italia invece è il paese dei commercialisti, perché nessuno ci capisce niente. Se fosse tutto più semplice potrebbero occuparsene i cittadini, manca il buonsenso. È incredibile, ma nella sede della Camera di Commercio di Genova, ieri, c'era questo incontro, trapelava l'imbarazzo. Tanto che sul programma il nome di Gino Paoli manco c'era, ma a un certo punto ad annunciare il suo arrivo, Sapore di sale, la sua canzone, che si sente nell'aria. Ed eccolo qui che si presenta Gino Paoli, tra lo stupore del rettore dell'Università di Genova, Comanducci, che è gelido sull'invito, dice: io non ne sapevo nulla, è un'iniziativa inopportuna vista la delicata situazione in cui è coinvolto Gino Paoli. Ma no, invece no, questo è il nostro paese, è l'Italia, fantastica. Sapore di sale, le note, entra Gino Paoli e lui parla delle tasse. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Atteggiamento è questo, cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Alessandro Milan, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. Allora, saluto Giampiero, camionista, che ci scrive: poco fa sono a Piacenza in direzione Milano e mi sono già passati di fianco quattro autobus carichi di clandestini, utilizza questa parola, penso che siano in direzione di Milano. Mi può spiegare che succede? E cercheremo di spiegarlo, caro Giampiero, dalle 8:15 con diversi ospiti. Prima però continuiamo a leggere i giornali. Allora, sapete che la maggioranza è un po' in crisi perché c'è questa questione di intanto il senatore Azzollini del nuovo centrodestra, per il quale è stato chiesto gli arresti domiciliari, e poi c'è la vicenda Mafia Capitale. Queste sono le due notizie che tengono ancora banco sui giornali. Goffredo Buccini del Corriere della Sera va a Bisceglie per cercare di intercettare, come tutti i protagonisti di questa vicenda che riguarda il senatore Azzollini e questa accusa di 500.000 euro di buco per la gestione della Congregazione della Divina Provvidenza. Allora, intanto la dichiarazione, ancora una volta Azzollini smentisce questa frase riferita da un testimone, la frase impronunciabile, quella bruttissima, quella minaccia alle suore: o qui comando io altrimenti vi piscio in bocca. Mai l'avrei fatto, mai avrei detto una cosa del genere, sono un fervente, profondamente cattolico. Questa brutta frase irripetibile io non l'ho mai detta, non è il mio modo di essere, non posso dirle di più perché c'è gente in galera, ma quella frase non è un'intercettazione, è riferita, non è mia. Certo, poi Buccini cerca di ottenere qualche dichiarazione dalle suore, la madre guardiana che si affaccia alla porta timida, le guance rotonde, dice: mi vietano di parlare, noi insistiamo un po', e dice: guardi, le nostre sorelle sono qui agli arresti, il dolore è tanto, immagini se fosse capitato a un suo parente, per noi è una cosa tremenda, siete tutti qui per carpirci una parola, allora ve la dico, è stata la politica. La politica è un po' il demonio, sorella, vada via. Insomma, non si riesce a ottenere di più. Però Buccini va da Nichi Vendola, ex presidente della regione, che lasciando l'ufficio da presidente pugliese ha trovato e ha ritrovato la sua vena lirica. Vendola mi dice, scrive Buccini, che la casa della Divina Provvidenza è un noir politico affaristico da quando era già manicomio, prima del califfato di Azzollini, parole di Vendola. Qui dentro c'è sempre stato un tappo di omertà, non si sapeva neppure dei morti per bolo. Fecero partorire una ragazza legata al letto di contenzione e io dissi alla madre superiora: andrete all'inferno. Non era questa superiora, era un'altra, quella precedente. Io ero un ragazzo, 20 anni fa, esternalizzavano tutto, decuplicavano i costi e a ogni elezione nuove assunzioni. E così ci sarebbe stato il crollo. Comunque, il caso Azzollini tiene banco. Si deciderà in giunta per le autorizzazioni a procedere sulla richiesta d'arresto la prossima settimana. Parla Dario Stefano, che è il presidente della commissione autorizzazione al Senato, lo fa con Repubblica, pagina 6, e dice: attenzione, poi sarà l'aula parlamentare ad assumere le decisioni finali. Certo, dice, inopportuna l'uscita di Orfini, presidente del PD, che già ha detto: firme diremo sì all'arresto. Perché? Perché credo ci si debba esprimere nel merito quale relatore. Io martedì mi limiterò a illustrare sinteticamente i fatti e le richieste della magistratura. Doverosamente, solo dopo aver ascoltato la difesa del senatore Azzollini, farò una proposta formale alla giunta. Questa è la procedura burocratica, ma c'è la tenuta politica su cui si interrogano tutti. Allora parla Angelino Alfano, ministro dell'Interno e leader del nuovo centrodestra, intervistato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 3, dice Alfano: intanto sull'onestà di Giuseppe Castiglione, altro DNCD indagato per l'inchiesta sul centro di Mineo, dei rifugiati. Sull'onestà di Castiglione e sulla sua correttezza son pronto a scommettere, dice Alfano. E poi, venendo al caso Azzollini, su questo punto vorrei ricordare che si può indagare e processare una persona senza necessariamente usare la detenzione preventiva. È in gioco la libertà, perciò invito il Senato a leggere prima le carte. Aperta parentesi, non vedo grandi sforzi da parte dei politici per battersi contro la carcerazione preventiva quando c'è un povero Cristo che viene. Però quando c'è un politico, è in gioco la libertà di una persona. Pensiamoci tre volte prima di mandarlo in carcere, che peraltro hanno chiesto gli arresti domiciliari, non il carcere. Comunque, torniamo all'intervista di Alfano, chiusa parentesi. Noi avremo come sempre un approccio garantista, tenuto anche quando si è trattato di parlamentare del PD. Dunque, niente crisi di governo, non vanno mischiati piani che sono distinti e separati. Così Alfano, che poi parla della questione anche di Mafia Capitale, dei migranti. Sentite invece cos'è il titolo del Corriere della Sera, pagina 5, riguardo la tenuta politica, riguarda Renzi. Il titolo è, basta il titolo dell'articolo di Maria Teresa Meli, questo qua. Il gabinetto di guerra di Renzi. Cercano di colpirci, resistiamo. Ecco, questo è l'immagine, ve la immaginate, il gabinetto di guerra, insomma, che immagino ci sia durante le guerre. Invece qua evidentemente è una guerra politica. Renzi dice ai suoi: cercano di colpirci, preparatevi perché sarà ancora molto lunga. Stanno cercando di colpirci con scandali e amplificando l'emergenza immigrati, ma noi resisteremo e andremo avanti con maggior decisione di prima. Questo è l'atteggiamento di Matteo Renzi, presidente del Consiglio, secondo il Corriere della Sera. Ecco perché poi c'è la vicenda seconda, che è Mafia Capitale, anche questa tiene banco. La notizia più interessante oggi ce l'ha Repubblica e racconta, ce l'hanno per la verità Repubblica e Il Foglio. Repubblica dice che per fare in modo di depotenziare Marino già è pronto il decreto per gestire tutto il giubileo straordinario e darlo in mano a un commissario. Il commissario è individuato nella figura del prefetto Gabrielli, prefetto a Roma. E, bisogna lavorarci un po', racconta Goffredo De Marchis, ma è quasi tutto pronto, anzi sembrava tutto pronto già nel Consiglio dei Ministri di ieri, poi all'ultimo momento è saltata questo commissariamento. Si descriveva una figura di raccordo operativo legata all'appuntamento, il decreto saltato all'ultimo momento in Consiglio dei Ministri, con esso c'è l'inserimento nel disegno di legge degli enti locali dei fondi per gestire il giubileo, anche un piccolo giallo, ma la partita ormai è tutta nelle mani di Renzi e Marino. E Renzi sarebbe deciso a nominare il commissario straordinario nel prefetto Gabrielli. Tanto che, racconta Giovanna Vitale su Repubblica a pagina 3, Marino è infuriato. Prova anche a protestare nell'incontro avuto con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio De Vincenti, che gli ha appena comunicato ciò che lui non avrebbe mai voluto ascoltare, cioè il governo ha deciso di commissariarlo sul giubileo. Marino, che entra in una riunione, dice: mi hanno mollato, non si fidano. Così, entrando a Palazzo Senatorio, riunisce i suoi, racconta il contenuto del faccia a faccia, cerca Orfini, gli chiede conto, insomma è arrabbiatissimo Marino, che dice: non posso accettare tutto questo. Questo ovviamente sono retroscena che Repubblica racconta a pagina 3, ma fa capire che il rapporto tra Marino e l'amministrazione centrale del PD sembra un rapporto molto molto più complicato. Tanto che Il Foglio ha questo retroscena. La firma è di Claudio Cerasa, quindi è del direttore. E si legge in prima pagina del Foglio: cannonate su Marino, attenzione, udite udite, perché Il Foglio giura è così, dice, e andrà così. La decisione di Renzi è presa, il comune non va commissariato, ma Marino va dimissionato. Marino va cioè convinto a dimettersi subito dopo l'estate, con la stessa, tra virgolette, spontaneità con cui è stato fatto dimettere Lupi. per far sì che Roma sia bonificata prima che le bonifiche dei professionisti dell'antimafia capitale possano arrivare più in alto del Campidoglio. La soluzione individuata da Renzi è identica a quella adottata a Bologna nel 2010 dopo le dimissioni di Del Bono, un commissario prefettizio non ostile che prende in mano la città guidandola in uno spazio temporale non superiore ai 12 mesi verso le nuove elezioni. Quindi il foglio giura, Marino ha deciso, bisogna fare a tutti i modi, in tutti i modi per far dimettere. Scusate, Renzi ha deciso, bisogna fare in tutti i modi per far dimettere Ignazio Marino, che va al Messaggero a fare un forum con il direttore Virman Cusenza, con tutti gli altri giornalisti, e si ripete le cose che dice in questi giorni: noi abbiamo demolito il sistema della casa, ora si può riniziare la ricostruzione come in chirurgia, quando abbatti c'è un male, c'è lo shock doloroso ma poi si riparte. Io sono fortemente convinto che con la sfida del Giubileo Roma abbia bisogno di una giunta capace e preparata. E riguardo alle telefonate tra Buzzi e la collaboratrice sua, dice: io sono paranoico, quando qualcuno mi scrive do mandato a tutti di rispondere, di contattare, tanto che Silvia Decina, la mia assistente, la mia segretaria, chiama Buzzi, gli spiega del progetto e poi il progetto non l'abbiamo fatto, non ci interessava ed è finita lì. E poi di Buzzi dice: l'ho incontrato solo una volta con il vice sindaco Luigi Nieri, quel giorno entrai nella sede della COP e vidi ex detenuti che si stavano reinserendo. Sappiate che Buzzi, alla discussione di laurea di Buzzi partecipò anche il presidente Scalfaro. Insomma, quel profilo criminale era ben mimetizzato. E un Marino che dice: vado avanti, assolutamente, sono vittima e sono onesto e noi andiamo avanti. Queste nelle due pagine 2 e 3 del forum al Messaggero del sindaco di Roma. Ma ovviamente si parla molto anche di lavoro, soprattutto in apertura del Sole 24 Ore. A questo proposito, Mauro Meazza, che un lavoro ce l'ha, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io no, perché non è un lavoro il mio. No, infatti bisognerebbe innanzitutto dimostrare che il nostro è un lavoro, caro Alessandro, però è vero. Molto del Jobs Act, caro Alessandro, e soprattutto caro Angelino, sì, per del Jobs Act, perché sono stati completati, varati i decreti, alcuni mancano ancora di un passaggio parlamentare, però tutto il riepilogo della situazione lo trovi sulle pagine 2 e 3 di oggi, ma attenzione, anche nelle pagine di Norme e Tributi, dove analizziamo specialmente le misure relative alle mansioni, perché sai che c'è stata ci sarà un'importante revisione per quanto riguarda la possibilità di assegnare mansioni anche inferiori. Questo è un punto che noi esaminiamo in Norme e Tributi, non nelle pagine 2 e 3, quindi attenzione, leggi sempre tutto il Sole 24 Ore, come sempre io ti consiglio. Poi non so se Peter mi può mettere sapore di sale, se no lo canticchio un po' io. No, sapore di sale. No, perché vorrei parlare di tasse, sì. Allora pensavo che fosse la sigla oramai consueta per il fisco, usare sapore di sale, perché proseguendo dal Jobs Act, caro Angelino e caro Alessandro, troverai anche che la Corte dei Conti ha fatto un conticino appunto sulle manovre degli ultimi 5 anni e ha trovato che abbiamo pagato qualcosa come 55 miliardi di tasse. Stai sereno, perché ci sono già clausole di salvaguardia pronte, ti ho spiegato ieri cos'è la clausola di salvaguardia, per 70 miliardi da qui al 2018. E qui potremmo anche intonare tasse che abbiamo già pagato. Vabbè, lasciamo stare. In ogni caso invece ti voglio dire... Sapete, Mauro Meazza è un cantante, io gli ho detto: ma tu dovresti cantare la segna stampa. Ieri era un po' titubante, ma vedo che comincia a buttarti. No, vuoi darci un altro dei tuoi... No, ti ringrazio, basta ecco, così. Vedi. Una facile battuta. E poi questa cosa qui della sigla del fisco mi piace molto, anzi vorrei anche consigliarla all'agenzia, se quando uno si collega al sito partisse, che so, Gino una Paolo, canzoncina, sì, certo. Vai avanti, di Gino Paoli, ma anche di altri. Smetti. No, scusami, ti devo dire una cosa importante. Sta per arrivare una seconda circolare sulla voluntary disclosure, che si può anche dire il rientro dei capitali, e ne parliamo naturalmente nelle pagine di Norme e Tributi. E poi vorrei prendere la residenza in Estonia, perché forse non lo sai, ma l'Estonia è il paese che è più innovatore e digitalizzato del momento, e quindi potremmo anche prenderci tu e io una residenza elettronica soltanto in Estonia. Ti spieghiamo tutto sul Sole di oggi. Infine, guarda che non ti spetta il rimborso da stress se ti cancellano il volo. L'ha detto la Cassazione, ti devono dare da bere, da mangiare, risarcire l'albergo. Vado a rompere il problema. Lo stress però, no, la Cassazione ha guardato, ha detto no, purtroppo ci dispiace, non c'è stress in questi casi, e allora speriamo che non ci sia stress neanche nel nostro fine settimana. D'altra parte il campionato è, grazie al cielo, davvero finito, e quindi, caro Alessandro, senza cantare stavolta, traffico! Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Allora, 7:50 minuti, come detto, dopo il giornale radio delle 8 parleremo della gestione dell'immigrazione, avremo l'assessore con delega anche all'immigrazione della regione Lombardia, della Lega, avremo la rappresentante nazionale del nuovo centrodestra, la portavoce nazionale, avremo racconti anche di comuni, certo comuni più piccoli, non i più grandi come Roma e Milano, che sono un po' sfregiati, devo dirlo, anche da queste immagini che si vedono nelle stazioni di bivacchi, di profughi. Che per carità, profughi, Maroni in realtà su Repubblica a pagina 11 in maniera chiara, intervistato da Matteo Pucciarelli, dice no, chiamiamoli con il loro nome, anche molti ascoltatori mi riprendono su questo, clandestini. Dice Maroni a pagina 11 di Repubblica, mi fa effetto che i giornali scrivano che arrivano barconi di profughi, sono immigrati clandestini, l'errore è fatto apposta per sollecitare il buonismo, dal punto di vista giuridico sei un profugo solo dopo che la commissione territoriale ne ha accertato il diritto. Altro problema, le procedure sono complicate e passano anche 8 mesi. Certo, in quest'altra intervista Maroni dice accogli i profughi, il Pirellone ti punisce, il Pirellone cioè la sede della regione Lombardia, nessuna punizione, premiamo semmai, cambia un po' il tiro, i comuni che non li prendono verranno premiati. La Lombardia ha già il più alto numero di immigrati regolari, 13% della popolazione, la media nazionale è dell'8%. E giustamente Repubblica dice, sì, ma cosa c'entra, scusi, e gli immigrati regolari pagano le tasse. C'entra che in un periodo di crisi molti di questi stranieri hanno perso il lavoro e così aumentano le tensioni sociali. Penso che nella ripartizione degli immigrati bisogna tener conto della sollecitazione che viene dai presidenti delle regioni. Così Maroni. Ne parleremo alle 8:15. C'è da dire che non aiutano in questi momenti di grande tensione le notizie come quella che proviene da Torino e raccontano sia il giornale che Libero con grande enfasi. È avvenuto, lo raccontava anche ieri la stampa, 3 immigrati che violentano una 20enne disabile. È avvenuto a Torino. Libero dedica 2 pagine a questa terribile notizia di cronaca, stuprata da 3 immigrati, tra i fermati un profugo, di questi 3 uno profugo e uno clandestino già espulso. Non aiutano queste notizie in un discorso di, come dire, inclusione, integrazione. Allora, un minuto. Che cosa devo raccontare? Racconto questo, una cosa sicuramente impopolare, ma lo faccio perché mi devo togliere un po' questo sassolino dalla scarpa. Io lo dico da giorni, da mesi, non leggo neanche mezza riga di Astro Samantha. Proprio tutti gli articoli li salto a piepare, una roba che trovo insopportabile, questa melassa insopportabile nei confronti di una straordinaria persona che ha fatto il proprio lavoro. Ma la colpa non è di Astro Samantha, Samantha Cristoforetti, tornata ieri sulla Terra, addirittura la stampa credo dedichi a lei pagina 2 e 3, le prime 2 pagine del giornale. E non è colpa sua, è colpa nostra, è di che l'abbiamo trasformata in un mostro mediatico incredibile, tanto che oggi devo fare 96 minuti di applausi come in Fantozzi per Astro Salviamoci, l'articolo di Mario Giordano in prima di Libero. Certo, adesso arriveranno le domande ad Astro Samantha imprescindibili. Dopo essere stata tra le stelle, ti senti una stella? Quando andrai da Fazio, ma anche scendendo dall'orbita, si ha più voglia di risotto o pasta al ragù? Ecco, perché questo abbiamo trasformato in questo uno straordinario viaggio nello spazio di Samantha Cristoforetti. Ma comunque articoli il 99% insopportabili. Ma siamo al momento della carta costa ancora. Articolo numero 4 della stagione. Il giornale. Non fate compiti. Ballate, fate le capriole, bambini. Pagina 18 del giornale, quarto articolo di questo soggetto, di questo tenore sulla scuola. Ballate, ballate, bambini, non fate compiti. Tralala, tralala, tralala, tralala. Guardate il tramonto. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzi via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, vedere le immagini dei bivacchi alle stazioni di Roma e Milano, soprattutto di migranti, sinceramente mi fa pensare a una gestione di questa delicata questione dell'immigrazione un po' allo sbando. Parliamoci chiaro, capisco l'emergenza, si capisce tutto, ma mi chiedo in quale città del mondo sia permesso che, come è successo a Milano stanotte, 400 persone dormano così, in maniera buttati qua e là. Certo, assistiti dalla Croce Rossa, dalle associazioni, ma la politica che risposta dà a questa situazione decisamente emergenziale. Oppure leggo su Repubblica l'articolo di Mauro Favale a pagina 10, abbiamo letto anche la segna stampa, dello sgombero invece di alcuni dei migranti alla stazione di Roma Tiburtina, fatto senza mediatori culturali, con la situazione che degenera, alcuni non capiscono, scappano, la polizia che a un certo punto li prende, li ammanetta, e uno dei poliziotti che alla fine si sfoga e dice: qui la questione è politica, invece mandano noi a fare una guerra che non ci appartiene. Lo sfogo anonimo del poliziotto, insomma. E poi c'è la politica che fa? La politica litiga molto. Diamo i soldi? No, non diamo i soldi. Togliamo i soldi ai comuni che li prendono? No, diamo incentivi ai comuni che li prendono. Insomma, per esempio, per Salvini la questione di Mafia Capitale, dove molti lucravano sui migranti, è risolvibile così. Se il flusso non ci sarebbero quelli di Mafia Capitale o quelli di Mineo, che è una cosa che la Lega denuncia dall'anno scorso, adesso è emersa in tutta la sua bestialità. Se non ci fosse questo enorme flusso di nuovi schiavi, non ci sarebbero quelli che ci speculano. Mentre Landini che vuole rifare, non lo so, non un partito, giura lui, ma dice: è barbarie l'atteggiamento di alcune regioni del nord che non vogliono accogliere i migranti. Io penso che l'atteggiamento delle regioni Lombardia, Veneto, e poi ho sentito anche il vostro, io penso che sia sbagliata, che sia una barbarie quel rifiuto che loro pongono. Il vostro era lì a Genova e quindi anche Totti, la Liguria. Va bene, parliamo di questo e lo vogliamo fare con l'assessore regionale alla sicurezza, protezione civile e migrazione della regione Lombardia, Simona Bordonali. Assessore, buongiorno, della Lega. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Così come saluto Valentina Castaldini, torna con noi, portavoce nazionale del nuovo centrodestra, quindi partito di Alfano. Buongiorno. Salve, e ben ritrovata. Buongiorno, Castaldini. Grazie per l'invito, grazie. Allora, Bordonali, intanto chiariamoci sui termini, perché c'è anche chi mi ha scritto SMS e oggi Maroni, il suo presidente, dice in un'intervista a Repubblica: basta questo buonismo, basta dire arrivano i barconi di profughi, chiamiamoli con il loro nome, sono clandestini, immigrati clandestini, che fin tanto che non si stabilisce se hanno il diritto di essere profughi vanno chiamati così. Lei condivide, immagino? Beh, sicuramente sui termini va fatta chiarezza, anche perché i numeri stessi lo dicono. Se noi guardiamo solo ai numeri del 2014, su 170.000 arrivi, 60.000 sono coloro che hanno fatto la richiesta di essere riconosciuti come profughi, quindi mi risulta che i restanti 110.000 che sono arrivati non sono stati, sono stati respinti. 60.000, no, non sono stati respinti. Sì, respinte le richieste. No, respinte le richieste, volevo dire. No, su 170.000 le richieste sono state 60.000. Delle 60.000 ne sono state accettate il 10%. Quindi su 170.000, 6.000 di fatto sono profughi e tutti gli altri di fatto sono clandestini. Sì, come sa, molti sono arrivati ma poi non si fanno identificare perché magari nel frattempo sono andati in altri paesi europei. E quindi... Sì, nel frattempo sono stati nelle situazioni che abbiamo visto oggi presso la stazione centrale di Milano, ma ovviamente presso il Ministero questi sono numeri fantasmi che non risultano oltre alle 50.000 presenze che ci sono state presso la stazione centrale di Milano nell'anno passato, non sono numeri che vengono considerati dal Ministero. Però mi dica, assessore, perché la regione Lombardia non li vuole prendere? Oggi Marroni dice: noi abbiamo già 1.300.000 immigrati regolari, però quelli, se sono regolari, pagano le tasse, voglio dire, che problema c'è? Noi abbiamo un problema emergenziale per quanto riguarda anche la presenza straniera sul territorio per quanto riguarda gli immigrati irregolari, nel senso che abbiamo un numero elevatissimo di stranieri regolari già integrati sul territorio che purtroppo a seguito della crisi per ben il 15% nel 2014 sono rimasti disoccupati. Quindi c'è un problema sociale importante da risolvere prioritariamente ovviamente per chi è già qua sul nostro territorio. Ah, quindi lei dice che questi hanno perso il lavoro e quindi rischiano tra l'altro per la legge Bossi-Fini di diventare irregolari? No, il problema grosso è che ovviamente se ci sono delle risorse a disposizione e purtroppo oggi le risorse che vengono messe a disposizione e degli enti locali e delle regioni sono sempre meno a seguito dei tagli che vengono fatti dal governo, devono fare delle scelte prioritarie. Sì. Ovviamente una regione che ha sul proprio territorio un numero così importante di stranieri che sono rimasti disoccupati, che sono già integrati, che fanno parte del tessuto sociale della regione, deve pensare prioritariamente prima loro. No, ma tra un attimo, un'altra questione importante. E tra poco ce la dirà. Lombardia è la terza regione che ha già accolto un numero di profughi importante, quindi non è assolutamente vero che regione. Beh, guardi, però il prefetto Morcone, che sa che da Roma gestisce un po' tutto, ieri ci ha detto che non è tra le regioni che ne accoglie di più come profughi, sono più la Sicilia, per esempio, o regioni del sud, ma comunque arriveremo anche a questa questione per capire anche sulla questione dei premi, non premi, premiare i comuni che li ricevono oppure no. Prima vorrei però coinvolgere Valentina Castaldini, anche perché oggi Alfano sul Corriere della Sera dice: io capisco l'esasperazione dei cittadini, ma c'è un fenomeno migratorio che non ha uguali in passato. Basta questo, Castaldini, per giustificare le scene raccapriccianti di gente che bivacca nelle stazioni delle grandi città? No, non basta questo, nel senso che noi siamo assolutamente consapevoli che questo è un evento storico, mai successo prima. Sappiamo benissimo anche l'esasperazione della gente e anche la difficoltà nel gestire casi come questi. Ricordo, perché bisogna dire anche la verità a chi ci ascolta, che queste persone stanno bivaccando nelle varie stazioni perché non vogliono farsi fotosegnalare, perché loro non vogliono stare in Italia, non vogliono stare in Italia. Molti infatti a Tiburtina sono scappati proprio mentre stavano per essere identificati. Esatto, perché loro cercano sostanzialmente una via di fuga, perché sanno benissimo che qui non c'è più la possibilità di stare. E le posso però, mi scusi se mi permetto, leggere un'intervista molto carina, dopo facciamo anche un quiz di chi è stato a farla, dove diceva: davanti ai bambini che hanno fame, i nostri sono i primi a offrire loro da mangiare, il Veneto farà la sua parte, siamo solidali con loro e basta. Quello che sta accadendo è un fenomeno mai visto, un esodo come solo nella Bibbia. Questo, le spiego, il governatore Zaia, che fa un'intervista nel 2011, dove sostanzialmente si capisce questa parte assolutamente solidale che ha nei confronti perché di c'era Maroni, perché c'era Maroni ministro, le dice. E questo è un po' strano, perché se la solidarietà va bene quando c'è ministro Maroni, non si capisce perché oggi, in questa situazione disastrosa, disastrosa perché questi immigrati non hanno la possibilità di andare via, ok? Perché c'è stato un patto che è stato firmato sempre in epoca Maroni, che non ci dà la possibilità di prenderli e di mandarli nelle varie altre zone d'Europa. Allora, su questo non pensiamo e non facciamo pensare al telespettatore che ci voglia un giorno perché l'Europa è abilissima a dire come ci dobbiamo sposare, che cosa dobbiamo fare. Ma l'Europa mangiare. Poi dopo ha fatto un piano di ripartizione quote e poi ci ha voltato le spalle appena il piano è stato siglato. Ma il dramma, perché il dramma è che l'Europa pensa di poter appunto dire come ci dobbiamo sposare, che cosa dobbiamo mangiare, quanto devono essere grandi le nostre vongole, e poi in una situazione così drammatica decide di non far niente. Allora il punto è esattamente politico, ma politico di tutti, cioè non solo del ministro Alfano, che deve gestire. Certo, politico, però i cittadini poi lo vivono e questo crea anche un po' di esasperazione. Ripetiamo, l'Europa è quella che ha firmato, è quell'istituzione che ha firmato l'accordo di ripartizione per cui 24.000 di queste persone che sono arrivate dovevano essere distribuite nei vari paesi, e ora questo piano non viene implementato e non verrà implementato a luglio, forse non verrà implementato manco a settembre, la solidale Europa. Però assessore Bordonali, insomma, l'accusa che viene fatta alla Lega è un po' aver fatto il voltafaccia da quando c'era Maroni ministro dell'interno, ha sentito le parole di Zaia che ci ha detto Valentina Castaldini, e ora invece che non siete, come dire, al governo, la solidarietà ve la siete scordata. Vanno puntualizzate alcune questioni. Prima di tutto, quando gestì la questione Maroni nel 2011 ci furono le primavere arabe e quindi ci fu veramente una situazione emergenziale limitata nel tempo. I numeri erano completamente diversi perché si parlò di 60.000 sbarchi, mentre nel 2014 ce ne furono 170.000, e non mi sembra che la situazione sia di emergenza sul territorio africano come ci fu appunto per quanto riguardò le primavere arabe. Per quanto riguarda gli arrivi, ribadisco, se noi andiamo a vedere la nazionalità di coloro che chiedono di essere riconosciuti come profughi e ci troviamo richieste da coloro che provengono da paesi dove non ci sono assolutamente guerre e i numeri del Viminale lo stanno a identificare, vediamo che è una situazione per cui chi arriva sul territorio ormai è la percentuale di coloro che scappano dalle guerre e l'emergenza è minima. Veramente minima. E che bisognerebbe fare, scusi, cioè, ma mi faccia capire, cioè, per la gestione lì di Milano, della stazione, dal punto di vista regionale, che bisognerebbe fare? Che farebbe lei da assessore? Sì, noi stiamo facendo la nostra parte, come abbiamo continuato a fare la nostra parte. Ma se voi dite non li prendiamo? Ma il problema è che noi continuiamo a ribadire che non ci sono più spazi, che non possiamo prenderli, ma ovviamente il governo assolutamente sordo alle esigenze delle regioni e degli enti locali, dei comuni, continua ad inviare sul territorio nonostante il territorio ormai sia al collasso. Però le chiedo dove dovrebbero essere messi, cioè non essendo pacchi postali. Uno può anche dire buttateli a mare e fateli morire. Il problema va risolto a monte. Penso che l'intervento anche di ieri del presidente Maroni, dove ha fatto appello affinché ci sia l'intervento dell'ONU per la soluzione a monte del problema attraverso la presenza di campi profughi sul territorio di partenza, anche perché, come si diceva precedentemente, è una situazione che non ha mai avuto. Sì, però io dico, se già l'Europa ci volta le spalle così, figuriamoci attivare la macchina burocratica dell'ONU, ma campa cavallo, cioè aspetta e spera. Se aspettiamo l'ONU, voglio dire, aspetta e spera, ma perché il problema è che si è aspettato troppo tempo. Io ricordo che la prima riunione che è stata fatta con il prefetto Morcone, che sta gestendo per il Ministero, per il Viminale, questa situazione in modo così confuso e pressapochista, un incontro che ci fu, per la verità ce ne furono solo due di incontri con le regioni, anche in questo caso si parla di quando una gestione completamente... venne realizzato nel agosto del 2013. Ma no, ma guardi, che ci sia una gestione, incapace, ma io guardi, lo dico, però non lo dico di questo governo, dico che sulle gestioni dell'immigrazione è una gestione da paese non all'altezza, quella italiana, da sempre. Beh, a mio modo di vedere da sempre. Però Valentina Castaldini, ripeto, nuovo centrodestra, voi non temete anche che tutto questo abbia dei riverberi negativi dal punto di vista dell'immagine del governo, cioè, ma proprio che i cittadini dicono ma che sta succedendo qui, non siamo in grado di gestire nulla? Ma guardi, io dico che è una situazione gravissima, gliel'ho già detto, l'ho già ripetuto, la domanda che mi faccio è perché quello che sta accadendo a Milano non accada ad esempio nella regione Emilia-Romagna, cioè non accada a Bologna, non c'è un bivacco nella stazione di Bologna. Ho la sensazione che dobbiamo, come dire, sostenere sempre di più le persone e ad esempio anche una cooperazione assolutamente virtuosa, persone assolutamente virtuose che si occupano di immigrazione, la possibilità di andare in microstrutture. Quando abbiamo fatto la proposta di poterli far lavorare e non bivaccare per mesi e mesi all'interno delle strutture, perché è semplice dire accogliamo solo i profughi, ma la domanda è quando è che capiamo che sono solo profughi? Perché il punto è che queste persone richiedono asilo, dopodiché c'è una commissione che dice se queste persone sono o non sono profughi. Che tra l'altro allora, porta avanti pratiche per mesi e mesi. Beh, allora, o poi ci sono i ricorsi. Come sempre da regione a regione, bravo. Poi dopo c'è un problema di ricorso, un problema di magistratura, un problema che... questi stanno nelle strutture un anno, non è che quando c'è questo gli slogan per cui questi stanno in albergo anni e anni e li vediamo ripresi con le telecamere, è perché fanno ricorso e noi abbiamo il dovere, che piaccia o non piaccia, di aspettare quel ricorso. Allora, il punto è chiaramente gestire al meglio l'emergenza, mi si permetta, non va bene che queste persone vengano portate via da Tiburtina, non va bene perché non va bene niente, cioè ormai basta che si dica la parola Alfano e non va bene che queste persone vengano assistite di fuori nella stazione di Milano Centrale, tra l'altro da una situazione di volontariato, perché ringraziamo di cuore la Croce Rossa per quello che sta facendo, ma... pensi se si fossero spesi soldi per questo, sarebbe stato, per cui questo è un dramma vero. E allora, rispetto agli slogan, perché ricordo che la Lega da un anno a questa parte ha dato almeno 100 soluzioni inapplicabili, non 100 esagero, ma 10 sicuro. Ieri l'altro chiedeva di chiudere Schengen. Scusi, ma di cosa stiamo parlando? No, lei dice invece che slogan abbiamo dobbiamo avere tutto un approccio costruttivo. Questo è costruttivo. Lo stesso che diceva Zaia nel 2011, oppure guarda, le leggo, Maroni avvisa i governatori, nessuno può dire no agli immigrati, 2011, uno no, quarto, ma sulla, 2011, sulla questione Maroni. Di Maroni è stata già più volte analizzata, cioè le dichiarazioni del 2011 e quelle attuali. Facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, poi insieme all'assessore regionale della Regione Lombardia, Simona Bordonali della Lega, insieme a Valentina Castaldini del Nuovo Centro-Est, vi presenterò due sindaci, uno da Acqua Formosa, Cosenza, molto arrabbiato con la Lega, glielo dico, Bordonali, e poi Vittorio Moraschini, vice sindaco a Valbondione, dove nella frazione di Lizzola, pensate, ci sono 150 abitanti e 95 migranti. 150 abitanti e 95 migranti. State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Allora, sono le 8:40 minuti, siamo con Simona Bordonali, che è l'assessore della sicurezza, protezione civile e migrazione della Regione Lombardia, della Lega, e Valentina Castaldini, portavoce nazionale del Nuovo Centrodestra. Saluto però anche il vice sindaco di Valbondione, in provincia di Bergamo, siamo, quindi Lombardia, Vittorio Moraschini, buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Oggi anche la stampa si concentra sulla frazione di Lizzola, frazione vostra, con mi dicono 150 abitanti, o mi dica però lei i numeri, e 94 profughi, scrive la stampa, più o meno queste sono le proporzioni? Sì, queste sono. Noi ormai da un anno ospitiamo un centinaio, esattamente sono 94. A oggi, e poi c'è stato qualche arrivo, qualche partenza, ma il numero è sempre... È quello. Sul 100, diciamo. E come va? Perché oggi la stampa racconta di cittadini esasperati, di gente che non riesce più a vendere le seconde case o affittare le case come luogo di vacanza. Che ma dice? Allora, diciamo così che noi siamo un paese in cima a una valle a 60 km dalla città. Chiaramente siamo un paese a vocazione turistica. Sì. E questa cosa, diciamo così, questa ospitalità, diciamo così, per qualcuno, a qualcuno dà un po' fastidio, nel senso che chi ha la seconda casa e viene qua a riposare, a farsi le ferie, questa massiccia presenza, insomma, è un po' strana. Ma okay. Come sono arrivati? Cioè, perché 95 lì, 94 lì su 150 abitanti? Allora noi qua appunto abbiamo delle case vacanze che anni indietro e ancora adesso vengono utilizzate per ospitare gruppi, oratori, proprio per fare vacanze estive e quant'altro, e sono private e il privato ha messo appunto a disposizione partecipando al bando. Che ne pensa lei da vice sindaco di quella polemica che c'è stata? Qui c'è l'assessore Simona Bordonari, assessore regionale, che sa che la regione dice premiamo i comuni che non prendono migranti. Ma io spero che succeda l'esatto contrario, spero che premino chi come noi che già la seconda volta ospitano questa povera gente che ha bisogno del nostro aiuto e soprattutto paesi piccoli come il nostro hanno spalancato le porte e hanno accolto questa gente. E dovrebbe venire il contrario, no? Da essere premiati. Assessore Bordonari, ha sentito? Sì. Sente? Ma la questione è molto diversa, ovvero là dove ci sono, qua non si parla ovviamente dei comuni dove le prefetture attraverso i bandi hanno inviato sul territorio comunale, spesso ad insaputa di alcuni sindaci, la presenza di questi numerosi clandestini. Qua si parla di quei comuni che hanno partecipato ai bandi SPRAR. I bandi SPRAR sono dei bandi cofinanziati dai comuni stessi. Là dove ci sono delle copartecipazioni da parte dei comuni che quindi mettono a disposizione anche risorse importanti, comuni che in questo momento spesso hanno grosse difficoltà a fornire servizi essenziali ai cittadini, che riescono a trovare altre risorse da mettere a disposizione, noi abbiamo riflettuto, abbiamo detto probabilmente non hanno le necessità che spesso evidenziano e hanno risorse proprie per cui continuare con la propria attività. Insomma, lei dice su questo non bisogna cedere. Però io la questione della gestione dei soldi e Castaldini, anche qui c'è stata una gestione un po' strana anche della comunicazione. Da una parte la Lega che dice togliamo i soldi a chi li prende, dall'altra parte il governo noi li diamo, premiamo i comuni che li prendono. Poi in realtà in Consiglio dei Ministri questa cosa non è passata. Non lo so, anche qui mi sembra una gestione tutta un po' approssimativa, no, Castaldini? Allora, il punto è questo, è che la Lega ha dato un messaggio chiaro, forte, non è che noi abbiamo detto valutiamo la questione legata al patto di stabilità, cioè la possibilità di alleggerire il patto di stabilità. Sì. Su certe emergenze è stato fatto, la Lega ha fatto una propaganda che sui terremoti non è stato fatto, ma do la triste notizia che in realtà nel 2012, soprattutto nel terremoto emiliano romagnolo, questo è stato fatto. Sulle assunzioni di certi, sulla questione di assunzioni insegnanti è stato fatto, in molte zone lo sblocco del patto di stabilità. Su questo bisogna valutare, non è una dinamica semplice e soprattutto oggi sul tavolo c'è un ripensamento generale sul patto di stabilità, che è una proposta, a mio modestissimo parere, essendo che sono amministratrice locale, so che cosa vuol dire il patto di stabilità nella gestione di un bilancio, è fondamentale. La possibilità di premiare i comuni virtuosi e disincentivare chi non lo è nel bilancio, questo è sul tavolo e verrà, secondo me, esaminato. Per il momento non ci sono forse gli strumenti tecnici. Posso permettermi, scusi, volevo sapere se gli immigrati di quel paese, il sindaco con cui abbiamo parlato, collaborano nella gestione della cura della città. Vediamo, vice sindaco Moraschini, cioè li fate lavorare gratuitamente, diciamo così, cioè pulire la staccionata? Allora... La provincia di Bergamo è stata la prima a firmare un protocollo col dipartimento dove appunto questi profughi possono essere impiegati. E lo fanno? Lo fate? E lo fanno volentieri. E hanno aderito tutti al progetto. E noi, cioè, cosa fanno? Quest'inverno con la neve li abbiamo impiegati a pulire marciapiedi, spazi pubblici, e poi li abbiamo impiegati a fare pulizie dei fiumi. Adesso li stiamo impiegando nel verde pubblico. Nel verde pubblico, posso garantire che sono veramente bravi, partecipano e si sentono, fra virgolette, realizzati, perché almeno sono impegnati a far qualcosa. La stampa racconta di molti che invece vorrebbero anche andare via, perché dicono siamo qui in Valbondione a 60 km, vorremmo andare magari in zona nell'Europa, però ha risposto alla domanda che le ha fatto Valentina Castaldini. Io la ringrazio, ma voglio salutare un altro vice sindaco, Giovanni Manoccio, siamo ad Acqua Formosa in provincia di Cosenza. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei è molto arrabbiato con la Lega. È molto molto arrabbiato. Io sono un po' di anni che sono arrabbiato. Lo so. Cioè, l'avevamo già chiamata, credo ha fatto il comune deleghistizzato. Guardi che l'ascolta tra gli altri l'assessore Bordonali, assessore alla regione Lombardia della Lega. Assessore, senta, perché Manoccio vuole cosa vuole fare? Vuole alla quale io auguro come sempre buon lavoro. Vabbè, questo per tutti. Vice sindaco, lei vuole querelare Maroni, è vero? Esatto. Perché? Molto spesso le mie politiche... Cioè per intasare un po' qualche procura? No, fatte nell'ente locale si incrociano con la Lega che ha sempre diametralmente... come dire, una cultura opposta quasi alla mia. E vabbè, perché, per questo ci sta nel dibattito politico, dialettici. Ma perché lo vuole querelare? Lo voglio querelare perché credo che stia commettendo un abuso d'ufficio, che è pericolosissimo, nel senso che viola delle norme costituzionali, sì, che sono quelle della libertà della politica e quindi della libertà di agire degli enti locali. Io ieri ad altri suoi colleghi facevo un esempio di questo genere. Io ho fatto il sindaco nel mio paesello, sì, per 10 anni, con una giunta regionale di centrodestra e con una giunta regionale di centrosinistra, 5 sì, anni e 5 sì, anni. E non ho condiviso spesso alcune problematiche, alcuni atti che hanno messo in essere i presidenti di regione e le giunte regionali, però mai nessuno si è permesso di dire che attraverso il mio dissenso rispetto alle scelte della giunta regionale potessi essere penalizzato con minori trasferimenti. Ah, è questa la questione, cioè la minaccia di minori trasferimenti è questa. Questo è un abuso di potere. Abuso di potere. Questo è un abuso e di poi potere. Che, quindi abuso di potere, lo vuole querelare per questo. E poi? E poi stiamo studiando insieme all'Associazione dei giuristi dell'immigrazione, Amnesty International, la possibilità di vedere se attraverso gli editti che ogni giorno fa Maroni e la Lega, sì, definendo quotidianamente le persone che arrivano dagli sbarchi solo ed esclusivamente in modo dispregiativo come clandestini, possa tradursi poi in un reato. Perché che loro reato? Non sono clandestini. Che reato? Loro non sono clandestini. No, beh, certo, ma che reato? Sono delle persone che arrivano in base a delle leggi, a dei trattati internazionali. Io faccio accoglienza da anni, sono uomini. Beh sì, sono certo, uomini. Guardi, arrivano in base a trattati, arrivano coi barconi molto. Certo. Nel momento in cui arrivano sono in attesa, certo, in attesa di capire che, qual è il loro status, sono da considerare clandestini. Profughi al limite, non clandestini. Perché clandestini? Profughi quando si stabilisce che lo saranno. Certo. Si stabilisce che lo saranno. Nel momento in cui sono nei barconi, nel momento in cui sono nelle navi che raccolgono, sono richiedenti lo status di profughi, richiedenti quando arrivano, richiedenti, sono richiedenti, esattamente, quindi bisogna utilizzare semanticamente. Vabbè, ma lei non vuole querelare, mi sembra di capire, per istigazione all'odio razziale, questo esatto, ecco, perché nessuno è clandestino in questo. Vabbè, questo però modo. Siccome Bordonali ci deve anche lasciare, noi dobbiamo anche chiudere. Bordonali, lei si sente razzista? Questo è il dato di fatto. Assolutamente no, io invito il sindaco a venire in regione Lombardia a vedere tutte le politiche che abbiamo attuato sull'integrazione. Penso che una regione dove vive il 13% della popolazione straniera, il 13% della popolazione lombarda è straniera, vive, si è integrato, quindi c'è una percentuale superiore a tutte le altre regioni d'Italia. Noi accogliamo un quinto degli stranieri. Ma non si sente razzista? Non si sente razzista. Ma io penso che abbiamo dimostrato che le politiche dell'integrazione fatte in modo serio ed efficace qua sul territorio funziona. Allora io vi devo fermare e salutare Simona Bordonali, ripeto, assessore alla regione Lombardia, Valentina Castaldini, portavoce nazionale del Nuovo Centrodestra. Ringrazio anche il vice sindaco di Acqua Formosa Giovanni Manoccio. Cosenza vorrà denunciare Maroni, il traffico. Concludiamo come tradizione con la nostra segreteria telefonica 024652-4492. Buongiorno signor Milan, volevo augurare una gran diarrea, per non dire caghetta, a colui che ha inventato la TASI. Se il 40% degli italiani non ha votato, perché il 40% dei deputati e senatori non vanno a casa senza vitalizio? L'indagine che riguarda il senatore Antonio Azzolini, un caso che mette assieme suore, sodomia, funzioni corporali. Che spettacolo, che spettacolo. Signore Milan, che te possino via fuoco, non c'è più scampo. Questi politici bisogna attaccarli alla radro come un tempo facevano i bovi, no? E a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code, che gli possono pegare fuoco a tutti quanti quelli, ma per davvero, Vabbè, l'immagine è di quelle epocali che ci ha raccontato il nostro Angelino, il nostro contadino di Terni che ci ascolta. Giannino a capo con una frusta a nove code contro li politici. Li politici. Buon weekend a tutti da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè. Ci ritroviamo lunedì come di consueto alle 6.30. Noi siamo qui puntuali, anche se un po' assonnati. 6.30.